Mela, mi senti, Mela? Mela, Mela. Fai un tre di negozio e mi dica quanto siamo, per favore. Sento che le mali si trovano. Barbara, Barbara, vieni, appena ti liberi, un po' subito. Laura, mi senti? Laura? Hai potuto venire? Si è staccata una febbre. Quanto si stava? Stava. Marina, Marina, Marina, Marina. Avanti? Certo, ti sento. Giù, Marina. Non ti stavo riconoscendo, Giovanni, buonasera. No, tutto bene, io stavo lavorando stamattina. Ho tabaccato fino alle 11, ma per carità oggi era un casotto al centro, un casotto. Questo vento ha fatto dei danni pazzeschi. Allora, anche oggi, poi lavoro anche il 25 perché io sono a far truccare e c'è la cosa a far truccare il 25, la cerimonia e così via, capito? E ci vuole essere io, che io sono quello di Chivi. Noi siamo qui ieri e abbiamo portato appresso, dove c'è il tuo Sergio Maria? Sì, sì. Ma io sinceramente sono sceso, sono giù perché c'è mia cognata che è andata via adesso, che c'è mia cognata a pranzo. Sinceramente ti stavo confondendo con mio nipote. Siccome mio nipote gli ho dato il portatile con l'antenna esterna, anche lui sta iniziando a piacergli. Con la casa tua te la piazzi così nella tua casa e facciamo le prove. Ma ho sentito che era fuori, era Alghero oggi, dunque no, non è lui. E ti stavo confondendo, sinceramente, ma strano, se Andrea è fuori, come mai mi sta rispondendo? Tutto qua. E sono uscito qui, ho fatto la doccia adesso, mi ho fatto la barba, mi stavo organizzando per il tabacco per domani mattina. Oggi non c'è nessuno, sinceramente, no. Ma della verità ho fatto chiamata varie volte, ma non mi ha risposto nessuno. Ieri ho sentito solo a cosa, a Giuseppe Leoncino, 10 minuti, ma non c'era un'anima, nulla, e oggi è la stessa cosa, il primo che sento è a te adesso. Io ho acceso, mi ho lasciato scaldare l'altro, sto scaldando, e non mi ascolto sul dice adesso, e così via. Ho detto, esci adesso, appena raffredda il coso del carbone, che c'ho il barbecue qua sotto, appena raffredda faccio... Era una pulita, se no se c'è un po' di vento mi fa un po' di casotto, ma è ancora, vedo che è un po' caldo, dunque aspetto. Tutto qua, e voi tutto a posto in campagna, sì? Sicuro, tutto a posto. Stanno cominciando ad andarsene perché c'è freschetto, oh, non ce ne tocca il vento perché già siamo dentro, però se esci fuori c'è freschetto e allora qualcuno se ne sa che andando domani mattina. E qualcuno entra presto al lavoro e per cui stanno cominciando, adesso ce ne sarà una vicina ancora e fra poco ce l'abbiamo anche noi, infatti adesso ho detto ma esce a cedere a vedere un po' se c'è Marino e già ti ho sentito. Io accendo, rimango un po' in ascolto, poi vediamo. E sinceramente il primo patto non ti avevo riconosciuto, sinceramente, ma è troppo vicino questo commissario, pensi mio nipote è troppo vicino, poi sapevo che era Alghero, come mai stiamo durando, ho detto, ma meglio così, è un casotto stamattina, e vedevi al centro storico, parabola in terra, cartone catramatto, rondolina, in via Sicilia è sceso quel tipo un tetto ventilato, però non c'era pacificato. Via Trieste è sceso degli alberi sopra le macchine, insomma oggi era un caos totale. E soldi dove sono scesi? Sì, era forte il vento, ma forte mi. Catta, senz'altro fa danno questo vento, perché era troppo forte. E me lo stavo dicendo, Mario me lo stava dicendo, mio genero, che è passato lì, che c'erano un sacco di pulizia, guardie municipali, c'erano, che è successo qualcosa, ma non sapevo proprio cosa era successo. Ma ha fatto un bel di danno, ha fatto un bel di danno. Era troppo forte, però dopo, verso le 9:30, ha calmato un pochettino. La campagna, al centro no, al centro stavo andando, diciamo che io passavo dentro il centro storico e ogni tanto mi sollevavo a testa, perché ogni tanto ne scendeva un vaso, un vasetto, una tegola di Rosello, e poi da andare da fatto, un caos. Dunque vedevi i vigili a fuoco, i vigili in giro, a tutto andare, oggi hanno lavorato, là. Meno male, ogni tanto. mio figlio è 4 giorni in ferie, per cui è tranquillo, infatti è con me qua. E se no l'avrebbero mandato anche a lui fuori a fare queste cose. No, questa Maria sta arrivando da parte di Alghero, che non piova anche qua, perché Alghero si può cazzi, perché mia nipote ha sentito al telefono, ma devo illuminarlo. Ha messo l'acqua, Gio Maria, ha messo l'acqua sinceramente qua. Io penso se calma il vento qua incomincia a piovere. Acqua ha messo oggi e domani. E domani è tutto il giorno. Poi lo sai il tempo come no? Gira un momento all'altro. È un caso, dicevano le pattuglie del comune, della protezione civile, allerta, in giro, raccogliendo e così via. Sono quelle persone che sono tipo baroncelli, no? Quelli fuori strada raccogliendo l'ottavi e il vigile appresso. E va bene, dai, già è tempo suo, ho visto come gira. Gira un momento all'altro. Oh, io, va bene, vediamo se c'è il signor Bacchisio. Bacchisio, oh, tutti allerta, sono Torres là fuori. Graziano sarà in campagna, Graziano! Campagna, sicuramente, Graziano sarà in campagna, penso, se non che non è rimasto a casa, boh, avanti. No, io non si poteva andare, volevo ancora, capito? Per cui. Oh, comunque questo giorno siamo stati bene. E va grandissima, per cui, insomma, una quarantina eravamo noi. Così che. Parecchia gente però se n'è andata, che molti entrano presto ma domani mattina, allora hanno mollato e sono andati. Adesso è buchi, ma non c'è un bel di roba, però chi ne ha gana? Ma senta Marino, pensa che ci sono così bassi genti, però ha dimenato il gruppo. Esatto, no, ieri eravamo in parecchio, ieri qua a casa, ieri c'era la cognata, il mio suocero, se viene oggi eravamo in pochi, oggi c'era e mia figlia da fuori, eravamo noi insieme a mio cognato, col marito, con mio cognato e in pochi. Appunto io appena sono arrivato, mi ho fatto la doccia, perché lui fa lo stesso lavoro mio e non è qua, ma com'è. Mentre lui stava per arrivare, io ho preparato il fuoco, preparato quanto. Quando è arrivato, mezzogiorno e mezzo, la una, abbiamo buttato un po' di roba al fuoco e ciccia. Ma sono pesante, io stavolta neanche c'ero, guarda. Io ieri no, neanche cenato ieri notte, pensate, così pesante, boh. Va bene, a me guarda, basta ci sia mangiare bene, ogni giorno festa, a me queste feste poco mi piacciono. Una volta ogni tanto già va bene, dai, avanti. Attento, Marino. Giorno, intanto, una fatta di sfodare, capito? Noi ce l'avevamo anche ieri sera, quel giorno ieri. Ieri notte ce la siamo andati, erano 15, perché? No, mazzanotte, chi ne ha voglia? No, assolutamente, che una gana. Non mangio nemmeno, e per cui se ne andiamo presto, e per cui c'è. E così. Attento, Marino, Marino, Marino. Ma dai, ci sono più tardi magari, ok? Sì, sono grazie della compagnia, domani, a più tardi, saltoni tutti i componenti, là. Più tardi si concilia, ciao, ciao. Attento, Marino, Marino, Marino, Marino. Ok, tutto è cambiato, ciao. Attento Marino. Santi che vuoi entrare? Bocca. Marino. Santi. Scusi. Attenzione che vuoi entrare avanti. Io Marino, mi ascolti? Certo, vedi coppio, Bacchisio, buonasera, forte e chiaro. Ok, buonasera, stavo chiamando poco fa, nessuno mi dava, ok. Aspetta che metto l'antennino, ho messo l'antenna grande, metto l'antennino a vedere un po'. Ok, questa è bella pulita, bella pulita come modulazione, Bacchisio. Ma questo è l'antennone. Sì, bella pulita, bella, bella. Adesso proviamo la piccola. Mi ascolti, Marì? Sì, avanti, Bacchisio, ti ascolto benissimo. E adesso sto usando quella là. Sto usando quella là, qua facevo l'antenna grande, adesso sto usando l'antenna piccola. Quella che ho visto stamattina io sto usando? Esattamente quella. Ah, quella stamattina sta usando, sì? Sì, quella che hai visto stamattina sto usando adesso. Va bene, Bacchi, va benissimo. Ma com'è la modulazione, è chiara? La modulazione è chiara, cioè leggermente un po' di QRM, ma poca roba, comunque la modulazione è chiarissima. Allora bisogna aprire qualche cosa. o allungano la corciale. Bisogna vedere. Quella di poco fa era proprio più limpida poc'anzi, era là diciamo, senza quel reme. E quella è l'antenna bianca, l'antenna bianca quella lì era. Già cambia, sì, già cambia. E comunque già va bene lo stesso, vai. E solo bisogna vedere a spalle se mi sentono. Se quella direttiva puntata verso di me, non lo so il bacchì. Bisogna aspettare quando si accende qualcuno dietro. Perché adesso è messa verso portatore. Adesso è la portatore, dritta dritta. Però è sempre bassa, non l'ho portata su. Se la porto su, forse venne ancora di più. Sì, ma l'hai attaccata dove ho detto io, l'hai attaccata, sì. No, sempre lì, non ho avuto tempo lì. Non ho avuto tempo, è sempre ferma lì. Infatti la devo portare leggermente più su. Si è provato a sollevarla oppure spostarla nel palo a fianco? Può darsi che nel palo a fianco funzioni più bene, oppure va peggio. Esatto, o va bene o va peggio, o uno o l'altro. Via, via. E Graziano, non si è sentito stasera, sono ancora in campagna. Guarda, sinceramente stavo modulando con Gio Maria, e Gio Maria è qui in zona, è in campagna dalla figlia. Due minuti e adesso è stato chiamato, per quello ha chiuso. Vicino alla linea terra. Avanti. Che arrivava a basso. E beh, ancora ubriachi siete. Buonasera, signor Graziano, buonasera. Buonasera, circolare alla ruota. Chi è? Chi è? Sono io, signor Bacchisio, avanti. Sì, buonasera, Graziano, non c'è ruota qua, no. C'è solo un manubrio. Ehi, ciao Bacchisio, ciao Marino. Tutti morti sono, tutti ubriachi. Ma dove sei, a casa, Graziano? O in campagna? No, sono rientrato poco fa. Ah, ok. Eri fuori zona. Io invece stavo lavorando stamattina. Stavo trabaccando e ho detto gira gira, mi avvicino a Graziano, gira, ma va bene, adesso vediamo se ce la faccio domani, se massimo dopo domani. Avanti Graziano, fai girare. Già sono in casa domani e dopodomani, ma chi è in campagna, tutto a posto, domani mi farà l'aria, anzi mi sembra la stanotte. Che forse a Graziano, io il casino mi ha stato tutti i dubbi di Graziano a goccia. Ho piazzato, non dico molto, ma ce l'hanno da 30 metri ognuno, dunque sono sei file e ho 180-200 metri di tubo messo. Ma se piove non c'è bisogno che innaffi, non ti preoccupare. Se piove no, ma se no già è pronto, apro il rubinetto e l'acqua sta scendendo. Quello sì, se non piove già hai fatto bene a predisporlo. Marino, festeggiata te l'hai stasera. Oh, grazie, sono stanco morto, io stamattina stavo lavorando. Oggi ho lavorato il doppio, tutto storico, tutto nella valenti. Parabole, tegole, tetti, ondoline, dappertutto, oggi c'era un caos. Al centro storico c'era un caso, c'era vigile fuoco, vigile urbane, protezione civile, tutti allerta. E ho visto in Viale Sicilia scoperchiato un tetto di una casa lì, fatta a listone con quelle ondoline tipo tergola in plastica, la TV l'ho visto, ha smantellato Cantuè, ha dato di voce a un paro di luci, non mi ha mentito lì, sei uscito in altre macchine. Certo che oggi era un rischio stamane a uscire a Peota al centro e si ne poteva barare qualche bacchiera, pure una bacchiera è nata una macchina, giù visto la crepa d'roba d'Arezzo. Era forte un bel quel vento. In via Trieste si è rotto un ramo e non so il danno che ha fatto, in via sopra, sta dietro che oggi era un caos. Io nella moto ho due parabole di ossequo, le tonde, e si sono staccate, sono marce, poi c'ho dei vasi, c'è la tegola, è un caos. Oggi dovevi camminare con l'elmetto al centro storico, non il berretto, l'elmetto. Che lo so che a me è pericoloso quando mi vento a camminare nei palazzi. Ti ne può fare di tutto. È un caos, avanti signor Bacchisio. Via, ma ho sentito la televisione in via Bottego, non ho capito cosa diavolo è successo. Cosa è sceso, antenna o qualche altra cosa? Via Bottego, cos'è? Una gabbiuglia vicino alla Coppoli, vicino dove c'è Maria, là. Mezza gabbiuglia si sta bruciando. E voi la truppa, zia Bacchisio, il vento va pensato a restare in terra, a parlare a nuovo. E un bel di danno ha fatto, ma la un bel di danno. E ancora sta soffiando, è tutto soffiale. Oh, ma chi è occupato per l'antenna? E stava a fare gli occhi, ragazzi, e la gente non sapeva. Oh, poco si muove, c'è la punta si muove, ma chi? Chi c'è, noi? Un paio di anni fa. Ma proprio, ma chi? Però ce n'aveva cavardato. I vivi in via Magellano, la gabbiuglia anche dove abita mia sorella, dove abitava mio padre, lì, in via Cristoforo Colombo, non aveva smantellato tutta la gabbiuglia. Sì, i noghi in via Magellano, c'erano un paio di anni fa o anche di più. La gabbiuglia di Gozzo, il signor Francesco La Freccia, lo zio di Giovanni, gli ha scoperchiato il tetto. Un bel di gabbiuglia scoperchiato. A me nel terrazzo c'erano tutti i bacchieri bruchi di manni, che sono ben divisati, tutti i dati di voce, sono buttato un'ora a 300 bacchieri in camane. È un macello questo vento, ragazzi, è un macello, boh. Però è calmi, però se calma messo acqua oggi, stasera e domani, ma. Io bacchiere, ho preoccupato, allora faccio l'antenna rovesciata, invece manco si muove, solo appunto sta muovendo. Bacchiere, avanti. Sì, e tu preoccupato. E se mi hai detto come l'hai fatta, non si rovescia, manco ma sogno. Devono uscire i tasselli dal muro per rovesciarsi. Se no non si rovescia, squilla sì, l'alluminio o fibra. Ma non fa niente, lasci vedere la mia allora, sembra una frusta. Ma io non ho messo nessun tirante ho messo, figurati, no? È bello, ogni palo c'ho mezzo metro dentro e dunque per quello sarà. Bene, avanti, grazie. No, ma anche la mia oscilla però. E tiranti ne ho messo, tre solo, uno non l'avevo messo. Però già è sempre nello stesso posto. Rimane un po' sorta perché non avevo messo il quarto tirante. Però già non va da nessuna parte. Ci sono quattro zampe che la mantengono. È un'ianda. E adesso in estate con calma per tempo. Salgo su, scendo su. Una bella pulizia nuovamente e poi le metto un paio di tiranti e poi la sollevo com'era. Perché adesso è alta, adesso va bene. Benissimo, anche più basso a te va bene, non c'è nessuno che ti rompe. Sei libero da tutte le parti, così Graziano, sei libero da tutte le parti, dove ha messo l'antenna, non adesso. Di quelle case lì li supera tutti. Solo il grattacielo non supera. Io c'ho da una parte, infatti Alghero, certe volte sento, certe volte. Ho fatto! Verso Fertilia, da lì già lo prendo bene, però è rarissimo che l'ho preso. Prendo bene Fertilia, lì sì, magari perché è più vicino anche se c'è il grattacielo, però Alghero no, raro. E la stessa cosa per me, Graziano, l'Alghero, nada de nada. Da quando De Lugo ha fatto il grattacielo mi ha tagliato i viveri. Prima l'Alghero sentivo come fosse qua. Adesso nulla. Qualche l'Alghero che si sposta verso il porto. Allora puoi sentire, se no non senti nulla. No, lo potrei sentire se nell'accende la metto giù, nell'altro terrazzo dove c'ho il giardino, là diciamo. Se la metto nell'angolo lì sì che lo prende Alghero, perché è più spostato sulla destra, capito? Dove adesso è proprio affacciata a grattacielo. E non è sempre che... qualche volta già l'ho preso, però magari non era proprio Alghero quello. Ho capito. È così, caos. E boh, io non farei prova ancora Alghero, non c'è nessuno, boh. Mi sto due minuti, mi sto spostando che mi stavo chiamando. Rientro subito, va, chi riprendi? Io dai, signor Marini, vai pure, siamo qua, io che la stiamo. Ci facciamo una chiacchierata al ping pong. Avanti, grazie. Ehi, attore, non si è sentito, disperso. Ha perso lo squalo, ha perso, la pinna ha perso. E sta cercando la pinna, grazie. Adesso quando la trova già rientra, se non è rientrato lì ieri oggi, ma chi era gutto? E si è fatto un fumo, l'ho fatto. E allora ci dici che è un obbici, che è a segno, con un naso un obbici, con una cannuccia un bel. Un obbici è un minerale, a chi li fate male, però l'alluvino e la birra è alla visi. E allora, tu non senti la stravusca, il nobisi è tu, e va semplice, l'astri, così è, c'è quell'aria foschiata, fea che ti trovi, Squali dopo di via, c'è fammi, hai detto ci mi servono le favole. E se non le fame finite, già ci sono, invece non ho preparato. E se altrimenti dice mi avete pagato un bel denaro. E allora, se non toccava aprire un portafoglio che si è arrato con i lucchetti. No, va a portare la catena pure, imbrigata. Ehi, ma dici la posti tutto l'attacca in giro, per proprio fatta apposta, per non aprirsi. Sì, mi interessa la beata fava tua, ma la beata fava mia non interessa affatto. Ma da che intendo, dico, ma sei imparato, io l'ho già preparata e tu non mi sei giunto, e tu quando devi dire dall'amato. Ehi, magari non le si dispiace, mi si lei da un altro. Ah, stasera da che entra, ve lo dico, ma alla voi domani la beata fava, te l'accoglio, quanti quintali di voi? E ora ci mangiate a burrucci, aglio, prezzemolo e peperoncino, tennera, un burro, mica nero, tu leva mano e nata la beata cottura, me abbai i denti d'anzura, me ti intendi, a io non mi mangi. Addirittura, ragazzi, ti intendi, ti prendi la golpe. Ehi, ma avrei più tardi, mangiava ancora il chisso. All'assoluto, ti ho messo, ancora il chisso, grazie a mangiare. E ancora il chisso, mi hanno mangiato un poco così, con la bocchetta, vabbè, ci esce un pezzo di focaccia. L'hanno invitato dalla mollica e l'hanno pieno di favette. Quattro si commossi non finirà più. Ma ci immaginate quando tu hai detto abbigliato un pezzo di focaccia e hai visto la piena di fava. E così era. E già avevo pensato per allora. Ehi, che la posso mangiare, graziata, ma io non la posso mangiare. Nada di nada. Se pochissimo anche cogli la posso. No, io già la posso mangiare, anche raccogliere. La parola di mia madre che c'aveva il favismo, però gli faceva male l'odore quando le sbucciavo, la magna se la magnava e non le faceva nulla. No, prima io la magnava, la una volta mi ha fatto male, mi sono cominciato con il piede dentro un garascio, lasciata tutto. Infatti la scorsa quando mi raccogliendo, non ti rimani. Sabato, sono piccato, sabato a manzana, sabato a sera, e rimani a trovare il capo, e tuttora sono caduto il capo. Ma tontonato, imbriaco. A chi ti deve punire i guanti? Di chi si di gomma? A quelli là. È una mascherina. Ti buoni. E così ti riparano. E non te ne rubiaco, capito? E poi non ho, con i guanti non c'hai contatto e il rubiaco non ti si impregna in mano, capito? Perché i poli della pelle, ti rimani, l'assorbono umido odore, ma chi ci ti fa di male? Ma se tu ti buoni un paio di guanti di chi ci di cucina, di lavare i piatti, di chi ci... è una mascherina, e puoi entrare tranquillo e non ti fa di nulla. Con i guanti te la pulisci da meccanico, visci azzurri, fini fini. Tanto visci tratto che puoi muovere i diti come ti piace, fare una cenuta in mano, poi c'è pongono i guanti, e se no fate pure rimane quasi niente. Come se scarichi un'ora, due ore, quello che fa, fate quasi rimane niente che la pezzi. A parte quello, la pelle puri assorbono l'odore mio, capito? Ed è pagesso che ti ha fatto mal di capo. Se non ti buoni mascherina, una mascherina ti dovresti mettere. O ti devi muccare il muzzichini, capito? Che ti piglia il naso e la bocca, e così no, non senti l'odore. Viene filtrata l'aria, hai ragione Graziano, questo sì. E bisogna in campagna le mascherine. La mandronia devo attaccarti innanzi al naso. E cosa mi vuoi? Ti la piglia e ti la buoni, quando sai che devi entrare in mezzo alla fava ai gifi. E se la penna è un bene, ti conviene, ti la buoni, specialmente a chi vira la fava, una volta non ne hai, non ne hai per più, ma se sai che le fave ti vanno in effetto contrario, no, te la metti la mascherina, se ce l'hai. Mia madre ti sto dicendo, l'ubiaco li faceva male. E allora a mangiarla la mangiava cucinata, una volta che era cucinata però. Cosa non li faceva nulla? Lui invece l'ubiaco la faceva anche in mare. E così è il pisello lo stesso, grazie. Vai, pisello, piselli. E il fiore, io ho le gambe a Oia, molli molli, tra marzo, aprile coso e maggio. Sono i tre mesi per l'allergia e il fiore delle fave, piselli guai. Avanti, va chi? Quello delle fave è peggio di quello dei piselli. Anche i piselli sono mastodonti, ci battono la testa. Però la fava è più dura. Proprio dove si abbussa, che fate, fate solo il capo. Ti prestesa la luce, ti fate dormire. E fate ti fa male, bacchetti, Zara? Ti fa male da quanto, capito? Poi si ma pagai si allergico, poi il fiore maledetto. Ma dove ce l'hai? Dentro la sera ce l'hai? O fuori, bacchè? No, sono fuori, sono. Sono fuori, sono, morì. Sono vicino alla serra. Vicino alla serra sono le patate, poi sono i pomodori, e poi sono le fave. E poi c'è un socco di piselli. E poi dopo più nulla, poi vai, va. Pensavo che era dentro la sera, però insomma la rete ti aveva grimbato, al chiuso ti aveva crepato, avanti grazie. Come a me la gioca, non la posso mangiare, a me mi ha intossicato e dalla volta mi fa male, me l'ho scampata bella la volta mi ha intossicato. Oh, a me mi fa anche senso se vado a raccogliere le lumache, quando la bigli che esce un poco di sciuma. Chi su risci, mi rimane. Io ne rugavo così e mi va effetto, mi va intendere già male. E allora mi mette guanti, capito? Quando vado a fare le marche. Se no con rimane non ne piglio più io in mano così. A chi mi va di male le marche stesse, pur pigliando in mano. Va male. Tutti i posti per sé, ma non dare il vanno, avanti da chi? La baffa che fa effetto, si attaccare alle mani, poi diventa viscica, sapone, nuda, direi pure fuoco e va a casa, un casotto a fare fuori con la baffa. E se grazie a me posso male a papà, dunque devo uscire quasi mai questo. E se no è peggio andare un giù. Avanti, grazie. No, le papà non mi fanno niente a me. La gioca giudizio, quando anda a culi gioca. E non mi pongo i guanti. Mi faccio male non mi attesse. A parte non ne posso manco mangiare, che mi viene tossicato. Ma anche prendendola così con le mani, senza guanti. E fatti la sciuma, chi su l'iscica, che va? Mi fa effetto, ma mi fa sentire male, capito? Soffri mille le intossicazioni e le allergie, non ti credimi. Ho fatto conto, io mangiavo un bilo antistaminico e ormai non mi fate più effetto. Faccio un'altra trombone, tutti ciò dei pacchi fazzoletti che consumo tutti quanti, Se proprio vuoi, poi il doppio di palettaria dentro al centro storico. E mi dice, ma non a tagli io. Non è andato a casa a tagliare no, gravava niente, piano piano. L'allergia, l'allergia. E più andando e peggio sta diventando, avanti i bacchini. E infatti, è uno che allerge così. E mi ha il naso. Sono passato il mio naso, grazie, ogni due o tre giorni sento un prurito, poi mi da soffiare nulla, soffia, mi scende un pezzo, tocco gravalla, tre centimetri e mezzo, duro, e lo senti nel naso, che, quando c'è il raffreddore, ti bugni, però non esce nulla, insiste, dopo esce la sola. Lo so, anche a me succede, ma che io, figurati, dall'intervento che avevo fatto, ormai sono peggio di prima, sono peggio di prima adesso, dunque, adesso vediamo, l'inverno, settembre iniziamo a fare una visita, tanto adesso è un caos, adesso c'è caldo, non fate di nulla, inverno, mi prenoto per una visita e vediamo se ce la fai nuovamente, sicuramente sono ricresciuti e così via. Perché non sto respirando bene come devo respirare, sto qua. Avanti, grazie. Perché anche tu dovresti ad operare specialmente in questo periodo. Le mascherine, Marino. Quando mai non ti puoi pigliare una mascherina e ti la riga presso. E ti la buoni, specialmente quando sei travagliente. Conviene portarti una mascherina e te la metti, ti vengo un bello in sassa degli niente con la mascherina. Io molte volte me la metto la mascherina, specialmente oggi con un vento in vita, la devo portare la mascherina, capito? Lo so, adesso vediamo, adesso dovrei avere la mascherina qua a casa, sono domani esco e me ne prendo un paio. Non basta quella che usiamo la notte, la maschera, anche di mattina bisogna utilizzare la maschera, e vabbè, c'è le polvere maledette che ci abbiamo dentro, avanti, bacchi avanti. Sì, ma tu devi andare a vista all'università, alle cliniche universitarie, e vedrai che quel capo di uomo ti sistema per la vista, è bravo. Io ero sentito, quando c'ero ricoverato io, c'era gente che ci aveva fatto già operare, e non ho avuto mai più problemi, sempre bene. Tedesco è però, Marino, non è sardo, è tedesco. Vado brigliotto. Ma io l'intervento che ho fatto a te, non mi posso lamentare, Bacchino, non mi posso lamentare perché grazie a Dio sono abbastanza. Mi ha operato il primario, molto bravo, che poi di sassa il primario del tempio. Abbastanza gentile, sì, anche gli infermieri, nulla da dire, ma me l'aveva detto, e guarda che ricrescono. In effetti è arrivato 4 anni e va solo peggio di prima insomma, ma mi sento tutto serrato, tutto chiuso mi sento, mi sto facendo dei sciacqui ogni tanto, ma non fate nulla dei sciacqui, adesso vediamo, adesso mi compro lo spray nuovamente, solo lo spray costa 20-22 euro, mi sono una ghetta, poi ogni ghetta avevo 22 euro, poi la roba non puoi neanche scaricare, avanti, grazie. Va bene, chiudo là, ci sentiamo Marino, ciao Bacchisio, buona cena, ciao Marino, buona cena anche a te, Ciao, a domani se coincide, ripiglia Bacchi. Ciao Graziano, buona cena anche per te e alla famiglia. Salutami la signora, l'ho sentita lì a grida, Isa De Cudi, Cazzera. Buona cena ancora Graziano, domani se coincide. Ciao ciao, avanti Marì. Ciao Graziano, buona cena, salutoni i componenti di casa, ci sentiamo là. Buona cena, bene, avanti Bacchi. Stavo dicendo, Bacchi la 27, ce l'hai accesa? Sì, ahi, è accesa. Batten sul 25, 26 batten un attimino, mi dai dei controlli? 26, dunque devo cercare la frequenza. Ok, ti chiamo io, sul 25. E beh, Marì. Bacchi, io sono su 27... 27 245 sono io. Sono 26 245, no, non 27, aspetta. 27 245.00. 27 245.00.